Il bagaglio a mano. Una fedele cronaca del mio ritorno dalla Francia. L'altra sera stavo in aeroporto e si era appena formata la fila all'imbarco. Il volo EZY304 a destinazione. Si può sapere che cazzo ti sorridi? Hai passato le ultime 4 ore a sbuffare e a strillare come un cane idrofobo. Dai cazzo, ma quanto ci vuole fa a passare sotto metal detector? Dai cazzo, non te potete togliere prima gli orecchini? Mi spiace signore, ma non può salire a bordo con le forbicine delle unchie. Dai, ma che cazzo di regola è? Se mi fate buttare quelle forbicine, Al Qaeda ha vinto! Vogliono cambiare le nostre abitudini, ma vogliamo dar vinto ai terroristi! No, è che ormai siamo arrivati all'imbarco, eh. E mi piace l'idea che torno e c'è la Bibbia che mi aspetta. E poi c'è quel mood crepuscolare da fine di un viaggio che in mezzo mi commuove sempre. Guarda anche gli altri passeggeri, il grande teatro umano. La giovane coppia che torna alla routine, ricaricata da questi giorni di svago. Ti amo tanto, Topilla mia. Sì, lo hai ben dimostrato. Tutti i cuoricini ammiccamenti. Per tutelare la privacy dei due fidanzatini, essi saranno rappresentati come Diddle e Didlina, orridi topi emo con piedi enormi che stavano sui quaderni delle femmine al liceo, ma che ben si accordano con gli sguardi teneri della coppietta. Poi ci sono i bambini con gli occhi assonnati dopo un weekend pieno di scoperte e novità. C'hai sonno, papà? Voglio un po' di lasagna che si sveglia. Questa famiglia invece sarà rappresentata come Barba Papà, ma solo perché erano tutti un botto ciccioni. Poi sta cosa che se l'ero si schianta morimo tutti mi consola sempre. Oh, ma comune mezzo gaudio. Oh, io ho la fobia di essere l'unico a morire mentre la gente intorno a me continua a vivere. Se ne sta andando. Se volete fargli un ultimo saluto. Tra un mese clonano i dinosauri? Io li vedo e tu no, Rosica! Insomma, tutto va per il meglio, nel migliore dei modi possibili. Signori. Oddio! Sembra che non ci sia più spazio nelle cappelliere. Siamo quindi costretti ad imbarcare in stiva anche alcuni bagagli a mano. Sottoponetevi al giudizio dello strumento, simbolo millenario di potere arbitrario e soprusi. Lo strumento è il giudice ultimo che sancisce se un bagaglio ha le dimensioni giuste per essere portato in cabina o se è condannato alla stiva. Perché quelli da Ibiza sono atterrati 4 ore dopo di noi e ci hanno già le valigie? Cedetemi, vi prego! Tanto ormai lì fuori non conosco più nessuno. Sono tutti morti di vecchiaia. Esso è costruito con le ossa umane ritrovate nei pressi dei nastri del ritiro bagagli. Corpi decomposti nell'attesa eterna. C'è qualche volontario tra i signori passeggeri? Oppure scegliamo noi chi dovrà essere giudicato? Chiedo formalmente scusa ai lavoratori rappresentati come le due morene cattive della sirenetta, eh. Cioè, lo so che anche loro sono persone, hanno famiglie, sogni, aspirazioni. Io qualcuno lo conosco pure. E niente, e m'hanno preso, insomma. Da lunedì sono stessa a tutti gli effetti. Oh, ma dai, è da paura. Ad alcuni voglio addirittura bene. Ma è che il contatto con lo strumento te cambia. Oddio, Calcare, non è come pensavo. Io ho scelto questo lavoro per aiutare il prossimo, per dare serenità a gente come P.E. Baracus. Personaggio interpretato da Mr. T nell'A-Team, che aveva paura degli aerei, ma voglio sperare che sia superfluo specificarlo, Cristo. Invece mi fanno fare questa cosa, che mi sta trasformando in qualcosa che mi fa paura. Allora, chi sarà il fortunato? A quel punto qualcosa si spegne dentro di me. E l'istinto di sopravvivenza prevale su tutto. Tira fuori il cellulare, fai finta di fare una chiamata e non incrociare mai il loro sguardo. È come una sfida per loro e cerca di pensare ad altro. Ricorda, loro sentono la paura. Gli insegnamenti di una vita all'improvviso hanno senso. Come se ogni giorno su questa terra mi avesse preparato a questo momento. 18 anni fa. Vediamo, ora interrogo. Svelto, fai finta di cercare qualcosa nello zaino. Rovista, santo Dio, rovista. Record regionale 1996. 129 secondi a ravanare in uno zaino contenente solo un astuccio e un numero di Dragon Ball. Lei, con le orecchie grosse. Yes. Metta la valigia e lo strumento tutto? Ma no, scusi, ma perché io ho una madre malata, sono cardiopatico. Amore, dai, non questionare. È una scena straziante, non riesco a guardare. Ora al suo posto poteva esserci io, penso. Una parte di me vorrebbe infuocarsi. Il vostro regno di terrore burocratico è finito! Non è che siccome siete low cost ci potete sfragnare il cazzo come vi pare! Lasciatevi portare sta cazzo di valigia! Oh, grazie, Calcare! De tu qui da presenza, comandante Zero Calcare! Accarezzo la gioiosa incoscienza necessaria a ogni rivoluzione. Abbiamo vinto, regà! Le muriane fanno pippa e trama come ci pare! Scusi, signorina, non sento più il battito di mio figlio. Sì, sta lì, sotto il baule. Cazzi vostri! Ma poi vince l'egoismo sociale, giustificazioni autoassolutorie. Se hanno preso lui è perché se l'è cercata. Ha un trolley, buon Dio! I trolley sono da vecchi o da infermi. Inoltre, la loro rigidità li rende prede privilegiate dello strumento. Non poteva prendere uno zaino, no! Il signorino preferiva portare a spasso la valigia come fosse un barboncino. Questo è il prezzo della comodità. Aspetti, ci siamo quasi. C'entra, sono solo ste rotelle che non ci passano. Non c'entra. Va in stiva. In stiva? Avere un bagaglio in stiva significa dire addio alla tua vita precedente. Lasciarti tutto alle spalle e pregare che le tribù insediatesi nei pressi del ritiro bagagli si dimostrino accoglienti. Noi siamo i più anziani, Vueling da Palermo, del 10 maggio. Per questo abbiamo diritto a stare vicino ai nastri e alle fonti d'acqua e ai cessi. Tu ti puoi buttare là, vicino alle scale mobili. Fatti dare una bottiglia per visciare. Ma qualcuno non ce la fa. Anziani, malati, rosiconi. Ogni anno sono più di 5.000 le persone che muoiono gonfie al ritiro bagaglio. A ricordarle solo un piccolo monumento appena fuori Fiumicino, l'impaziente ignoto, che con labbra di marmo pare sussurrare le ultime parole di chi ci ha lasciato. Riportarci i vostri! È naturale che questa prospettiva susciti reazioni scomposte. No, no, non va in nessuna stiva! È il mio tesoro! All'andata me l'hanno fatta passare! All'andata me l'hanno fatta passare. Quante volte ho udita questa frase, quanto dolore in essa. Perché non imbarcate loro? Sono grassi, i loro figli occupano più spazio. Non sono barba papà, sono giabba cazzo. Grazie a chi ha barba faccia da cazzo. Sfonnalo! Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Ultimo tentativo, che sono sicuro che entra. Si narra che solo l'eletto possa riuscire a domare lo strumento. La leggenda vuole che facendo scorrere al contrario la VHS originale della spada nella roccia si possano vedere i movimenti esatti da compiere. Il punto preciso sarebbe segnalato da un messaggio segreto nascosto nelle linee cinetiche, visibile solo al rallentatore. Ma appunto, è una leggenda. Per favore, ci segua. Si sta umiliando. Aspettate! Giuro che entra! Giuro che... Entra, porco cazzo! E vi dicevo... È entrato, stronzi! Vi ho fatto tutti figli in carta e porta a casa murella di merda! Il tenero Diddle che sacrifica la sua valigia ed esulta sguaiatamente mostrando il pacco. Tutto ciò mi mette a disagio. Come siamo arrivati a questo punto? Frega un cazzo, non parto più! Mollo il lavoro! Ormai sono il re del mondo! La valigia della mia nonnina morta! L'ultimo cimelio della mia famiglia! Distrutta! Sono i ritmi forsennati del turbocapitalismo che ci fanno sentire così angosciati all'idea di perdere, grazie, mezz'ora a ritiro bagagli. Si può chiamare vita questa corsa continua, questa catena di montaggio che non rallenta mai e non perdona i ritardi. Un'esistenza a correre contro il tempo, le consegne, il lavoro, le scadenze. Oh, ci pensi se ci avevano imbarcato lo zaino? Finiva che stasera riuscivamo a guardare solo 3 puntate di House of Cards. 3 dico, che serata micragnosa. Invece 4 è il numero aureo. 4 puntate e 10 plum cake, spam! Ecco le endorfine per affrontare la nottata. Sono 2 ore fissa al soffitto con la tachicardia. Anche no. Lo so, bastava molto meno per dire quanto mi spacco il cazzo aspetta i bagagli. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie Radio Onda Rossa, grazie Enrico Menozzi, grazie Alessia Mendola, Daniele Giuliani, Michele Botrugno, Chiara Giancardi. Grazie. Grazie Michele, Zero Calcare, un applauso ancora.